Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, oggi parliamo di un caso risolto dall'Adico e questo, insomma, ci teniamo a dirlo, è andata bene perché siete riusciti a far sì che una casalinga sia risarcita, adeguatamente direi anche risarcita, per un infortunio che le era capitato cadendo su un marciapiede dissestato. Raccontaci un po' questo episodio e come sono andate le cose. Sì, innanzitutto Francesco, prima di raccontare l'episodio volevo solamente cogliere l'occasione, proprio in virtù di questo episodio, spiegare come quando accade qualcosa e ci si trova per strada e rendersi conto che insomma c'è sempre un responsabile. Se guidiamo in auto e per caso una gomma dell'auto si dovesse rompere perché c'entriamo una buca, oppure per esempio su un marciapiede come nel caso della signora, comune o la provincia, quando si parlava di provincia nel caso delle strade provinciali o nel caso delle strade statali o nel caso delle strade comunali, ma ci deve essere sempre chi è chiamato a dare una risposta alla persona che può rimanere coinvolta, come nel caso della signora, in un incidente. E quindi raccontaci un po' cosa è successo in realtà. Praticamente una signora di Venezia si è trovata a cadere rovinosamente in un marciapiede, e questo marciapiede era sostanzialmente ricoperto da foglie che ha reso ancora più scivoloso il fondo, per effetto anche di un avvallamento che c'era. Nella caduta la signora si è rotta un polso e conseguentemente a tutti i disagi che ha avuto, le spese mediche che ha dovuto sostenere e appunto anche a tutta la fase di recupero che insomma la signora ha sostenuto, si è rivolta allo sportello risarcimento diretto dell'Adico per far valere i propri diritti e chiedere, in questo caso al comune di Venezia, ma non farebbe differenza se fosse un altro comune, un equo risarcimento, che chiaramente che con l'intervento dell'Adico si è riusciti in tempi abbastanza brevi e senza andare in causa a ottenere un'ottima transazione che alla fine ha visto tutte le parti soddisfatte. Quindi la signora evidentemente conosceva l'Adico e anche il vostro sportello, o è stata consigliata adeguatamente? Ormai lo sportello insomma si occupa di queste cose, obiettivo risarcimento, sicuramente è uno sportello molto molto conosciuto qua, almeno nel territorio in cui opera e nella regione anche in particolare. Soprattutto nel caso specifico la signora è riuscita a ottenere un risarcimento di 8.500 euro, ma la cosa importante è che è riuscita a farlo senza andare a sostenere particolari costi, perché essendo stata tutta un'attività stragiudiziale, la conclusione sia in tempi che comunque sono stati superiori a un anno, perché poi mettere d'accordo tutti non è mai un lavoro semplice, ma soprattutto come ho detto i costi che non sono quelli necessari per accedere alla giustizia ma bonari, perché insomma si è ragionato intorno a un tavolo, ha permesso a tutti quanti di rimanere soddisfatti. È interessante il fatto che c'erano anche delle foglie forse nel marciapiede che hanno contribuito al concorrere insomma della caduta della signora, quindi mancata pulizia forse dei marciapiedi più anche il dissesto del marciapiede. Sì, ricordiamo che c'erano delle foglie che nascondevano un ostacolo e che quindi oltre a rendere il fondo più scivoloso ha impedito alla signora di evitarlo. Non c'erano segnalazioni che costringevano la persona a poter trovare delle soluzioni per poter non incorrere in questa situazione, però è anche vero che la signora è stata molto accorta a produrre tutto quel materiale necessario, documentare quanto è accaduto, perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che quando si rimane coinvolti in questi incidenti non è semplice poter chiedere un risarcimento se non ci sono le condizioni, e purtroppo o no le condizioni vanno dimostrate, e per dimostrare materiali fotografici, testimoni e tutto quello che può essere necessario, come anche un tempismo a denunciare l'accaduto, comunque aiutano a poter arrivare a un felice epilogo. Quindi Carlo, come hai detto tu, se ci capita una disavventura simile, l'importante è avere delle prove che vanno a confermare quello che ci è accaduto. Francesco, non volevo dare un messaggio che adesso chiunque cada può ottenere un risarcimento, però dove c'è un'evidente incuria da parte di un responsabile su una gestione di un bene che comunque può essere utilizzato da chiunque, certamente il responsabile è anche tenuto a dare un equo risarcimento qualora qualcuno si faccia male. Certo, allora ricordiamo che l'Adico serve anche a questo, ad ottenere i giusti risarcimenti quando ce n'è la giusta causa. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it e ringrazio nuovamente Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, per essere stato con noi. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.